camerati rurali. Durante i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile del 1938, pochi italiani levarono tante volte gli occhi al cielo quanto colui che ha l'onore e il piacere di dirigergli la parola in questo momento. Voi lo ricordate, non una spilla d'acqua durante 4 mesi, pochissima neve sulle Alpi, quasi niente sugli Appennini. La terra riarsa come nell'estate, il grano ingiallito non cresceva, mai l'ombra di una nube, l'orizzonte implacabilmente sereno. Lo stesso fenomeno si verificava in altri paesi d'Europa, ma questo non si riguarda. Erano lecite le previsioni più pessimistiche sui raccolti, fino al giorno in cui, nella prima decade di maggio, grandi prolungate piogge caddero benefiche in ogni parte d'Italia. Il grano ne ebbe immediato giovamento. Il raccolto era salvo. Si era però nel frattempo delineata la solita speculazione straniera sulla fame che attendeva il popolo italiano e sulle combinazioni politiche che ne potevano nascere.